Mani sauc Toms Kuiņš, un laipni lūdzam Geronimo. No, what was it? Geronimo, that's Geronimo. Very good. My name is Toms Kuiņš, and welcome to Geronimo. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia e della musica dance, let's dance. Mettiamoci le nostre scarpette rosse e balliamo il blues, introdotti dal buon Scaunch. Come avete sentito, chi siamo? Squinch. Troppo difficile da dire. Io sono Filippo Cautz, mi piace la musica dance, che anche un alieno la impara. Vicino a me c'è Leonardo Piccione. Buonasera a tutti. E davanti a me c'è Michele Peracci. Ciao, sono Michele. Ciao, sono Michele, sì. Bella presentazione, semplice, giustissimo. Noi tre siamo la redazione di Bidon e siamo qui come voci di Geronimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023 in collaborazione con Shimano, e siamo qui per una festa. Party for everybody dance, come on and boom boom. Io farò tutta felici. La puntata così, sappiatelo. Siamo felici per la vittoria di Nico Dance, ieri avevo detto ci vuole una vittoria rinfrancante, no? Per risollevare gli spiriti dopo la giornata un po' così di ieri. E questa è proprio una di quelle vittorie che ci rendono felici, perché Nico Denz è un corridore, è un bel corridore e un ragazzo sorridente. E poi, scusami, ma l'abbiamo detto ieri, chi più di Nico Denz? Uno di noi. Ieri parlavamo dei corridori che sono uno di noi, sì. Credo che Nico Denz sia la summa dell'uno di noi. È veramente il corridore che sentiamo quasi come uno di famiglia. Sì, sentiamo come uno di famiglia, scoprirete perché a breve, ma volevo dire una piccola specifica. Noi non abbiamo un archivio con il benvenuto a Geronimo registrato da tutti i ciclisti del Giro d'Italia, quindi avete sentito Toms Kuiņš perché ci abbiamo parlato oggi, non perché li abbiamo registrati tutti, quindi Toms Kuiņš è arrivato secondo e abbiamo parlato con lui, per quello avete sentito il benvenuto, perché come dicevamo qualche tempo fa, forse... parlare a Geronimo fa venire voglia ai corridori di ottenere buoni risultati, mettiamola così. Non è l'unico corridore intervistato stamattina che abbiamo visto in fuga che è partita, così arriviamo direttamente al riassuntino minuscolo di tappa. Bravo, che ormai ti lanci da solo, la volata da solo. Sono un professionista pazzesco ormai. Una fuga che è partita dopo circa 20 km, composta da quasi 30 corridori. Quello messo meglio in generale era Patrick Conrad a 8 minuti, alcuni riescono a unirsi ai fuggitivi, altri no, alcuni erano in fuga solo per i punti del traguardo volante, altri per vincere la tappa. La mossa vincente ai meno 98, in un punto abbastanza anonimo del percorso, in pianura, dopo una rotonda, un drappello di 5 corridori si avvantaggia sulla fuga stessa. Sono Battistella, che si staccherà quasi subito, Tonelli, che si staccherà sul Colle Braida, Berwick, Squinch, io non ce la posso fare con questo cognome, Squinch e Dance. Questi tre arrivano fin sul traguardo di Rivoli, dove lo sprint vince proprio Nico Dance. Sì, ha vinto con uno sprint che ha lanciato in prima posizione e ha terminato in prima posizione, semplicemente perché a volte il ciclismo è uno sport molto semplice e vince il più forte. Oggi lui tra tutti i fuggitivi era nettamente il più forte e ha vinto senza praticamente storia nel finale. Neanche di corto muso, è uno sport semplice, il corto muso ha vinto davanti perché ha detto davanti non possono sorprendermi, che è, non lo so, anche strano, forse anzi è la posizione meno ideale, no? Però scusi, Denz era semplicemente il più forte, ha attaccato anche sullo zampelotto di Villarbasse, insomma, sì, era palesemente... lì che aveva in programma di staccare, sì, i suoi compagni di fuga, non ce l'ha fatta e poi appunto ha detto sono partito per primo perché così almeno non mi sorprendeva nessuno, che è un po' controintuitivo come ragionamento, di solito ti sorprendono mentre tu stai avanti, però dicevamo, come diceva Michele appunto, era il più forte e ha vinto. Ordine d'arrivo: Nico Denz, Toms Kuiņš secondo, Sebastian Berwick terzo a 3 secondi, a 58 secondi tutto solo è arrivato Alessandro Tonelli. E poi a 2 minuti e 07 Marco Frigo. A seguire Ilan Van Wilder della Sodal al sesto posto, Alberto Bettiol settimo, Christian Scaroni ottavo, come si pronuncia? Michael Esman. No. È tedesco. Michael. Chiamo Giovannelli? Ci vorrebbe. Mettiamo in pausa e chiamiamo Giovannelli. Un momento per chiedergli aiuto. E decimo Alex Bodan della Age Desert. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al 8 minuti e 19 da Nico Denz, regolato da Pavel Sivakov e vabbè tutta la Ineos in testa. Sì, lontano. Posso dire lontano. Che non me ne sono nemmeno accorto dell'arrivo del gruppo Maglia Rosa io oggi. Proprio quando si dice la corsa nella corsa, come diceva De Zan un tempo, ecco, questo era uno di quei casi in cui la corsa per la classifica generale è svanita nella giornata di oggi. Ma di classifica generale ne parleremo dopo, perché quando vince uno di noi c'è una cosa che va fatta subito. Bisogna chiamare a casa. Fatto una telefonata a Marsico Vetere, in provincia di Potenza, a casa Campese, dove ci ha risposto il signor Giovanni, che è il nonno di Nico Denz. Pronto? Pronto, Giovanni? Salve, sono Leonardo Piccione, il giornalista che ha incontrato a Venosa insieme ad Antonio Coronato. Sì, mi ricordo, come no. Insomma, Nico ha vinto la tappa al Giro d'Italia, volevo chiedervi come state. Abbastanza bene, adesso ci siamo divertiti a vedere che almeno ha vinto una tappa. Siamo contentissimi che ha vinto, almeno siamo contenti perché lui fa sempre che aiuta gli altri, no? Oggi ha potuto vincere lui, almeno è andato avanti e ce l'ha fatta, no? Avete visto tutta la tappa? Com'è andata? Mi racconti un po' la giornata, insomma. Io non ci sono stato, mia moglie c'è stata, perché io ho un po' di dolore ai piedi, ho dovuto fare un po' avanti e indietro. E allora mi può passare un minuto magari Anne? Le chiedo a lei un attimo com'è andata. Ti passo Anne, sì. Grazie, sì, grazie. Sì, ciao. Ciao. Allo? Anna, come va? Oh, sto bene, sto proprio benissimo adesso. Sono molto emozionata. Sì? Che tipo di emozione è? Mai l'ha provata prima un'emozione così o è diversa dalle altre? Sì, adesso sono vicino al televisore, vedo Nico proprio adesso, non lo so. Com'è andata la giornata? Quando ti sei messa davanti alla televisione a vedere la tappa? Dall'inizio o qualcuno ti ha detto che c'era Nico in fuga? No, sempre, io sto guardando tutti i giorni, sempre, quando il giro sto vicino al televisore e sto guardando tutto, faccio un poco avanti e indietro, questo sì, ma oggi ho visto Nico sempre davanti e normalmente cosa devo dire? Niente. Sono vicino al televisore e sono contenta, non lo so. Quest'estate quando lui viene con la famiglia magari si organizza una bella festa tutti insieme, no? Questo sicuro, lui ha già detto quando è possibile lui viene a luglio. Sì. I primi giorni a luglio vuole venire con la famiglia, sì, vediamo. Va bene, allora godetevi adesso questa vittoria, questo pomeriggio e di nuovo un abbraccio, eh? Siete molto generosi e simpatici. Grazie mille. Ciao. Ciao. E vabbè, speriamo che ci invitino a questa festa, siccome siamo di famiglia, per cui verremo invitati. Consideriamoci invitati alla festa di Casa Denz, si festeggia la vittoria di un tedesco. Sai da quant'è che un tedesco non vinceva una tappa al Giro d'Italia, Michele Peracci? Volevo dirtela io questa statistica surreale trovata ieri. Da ieri. Però adesso la seconda domanda è: da quanto tempo due tedeschi consecutivi? Questa è la statistica. Ce l'hai la risposta? No. Nemmeno io. Era solo una domanda. Dovremmo chiederla al nostro amico Stefano, statistico, che insegnava nel liceo dove c'era il quartier tappa. Quest'oggi faccio notare, visto che io non sono uno statistico, ma mi sto addentrando nel campo, il gioco delle coppie che continua. Oggi la seconda vittoria tedesca è un Giro d'Italia in cui si raddoppia, almeno dal punto di vista nazionale. E io faccio notare che forse la statistica che insegna Stefano non riguarda i dati del ciclismo, quante volte vincono i tedeschi, i belgi e così via, però magari volete invece sì. Una curiosità interessante? Per la prima volta, oggi, Lennart Kemna non è finito tra il 12esimo e il 23esimo posto. Che interessante! Questa striscia, anche... No, no, veramente. Io sono interessato, in tutte le tappe del giro di quest'anno è finito sempre tra il 12esimo e il 23esimo. Esatto, crono comprese. Questa è una bellissima statistica, per una volta bisogna fare i complimenti. quando è giusto è giusto. Sarebbe finito tra queste posizioni se circa 25 fuggitivi non fossero arrivati davanti a tutto il gruppo. Per cui Kemna ha questa streak, diciamo. E com'è finito? 43esimo. Per cui per l'ennesima tappa è finito tra il 12esimo e il 43esimo posto. È regolarissimo in questa fascia. E Nico Denz, gli vogliamo un mondo di bene, quasi solo noi, perché alla conferenza stampa di Nico Denz ci siamo presentati praticamente solo noi, l'abbiamo sommerso di domande, una più surreale dell'altra, perché con Nico ci si diverte, si può fare le battute, si può ridere. Abbiamo parlato di quale sarà la musica dance con cui celebrerà la sua vittoria. E non sarà dance, però. Sarà Schlager. Sarà comunque Schlager. Lui un grande appassionato di Schlager, per cui dai, siamo lì più o meno. Sì, più o meno. E Michele Pelacci gli ha chiesto addirittura come spenderà il buono acquisto Trenitalia che viene dato ai vincitori di tappa. Esatto, si chiama Carta Regalo Freccia Rossa, questo premio che un po' fa parlare tutta Italia, insomma, no? Prime pagine, insomma, di quotidiani, su. E tu come lo spende Nico? Non ha risposto, ancora ci deve pensare, vabbè, giustamente. Cioè, andrà in Basilicata, dove vuoi che vada? Possibile, col buono. Certo. L'ha appena preso il buono, in effetti, ancora... Idee incerte. Dai, non sappiamo neanche con cosa si può acquistare con quella carta regalo. Magari vale nel vagone ristorante. C'è ancora il vagone ristorante nei treni? Non lo so, su alcuni sì. Sui regionali sì, no. Non so sui treni dei ricchi, quelli veloci, se c'è. Che comunque, però non arrivano in Basilicata, te. Non so. In ogni caso, buon per Dance che ha vinto la tappa e ha vinto anche questo prestigiosissimo premio. Tappa ricca di fuggitivi. Sì, ricchissima di fuggitivi. Uno ha... forse rischiato a un certo punto di diventare maglia rosa virtuale, non lo è diventato. Stiamo parlando di Patrick Conrad, detto anche Patrizio Corrado, che sì, è arrivato poi 21esimo. Compagno di squadra di Nicolò Danza. Sì, compagno di squadra di Nico Denz, austriaco. È rientrato in classifica generale, l'unico che ha guadagnato posizione in classifica generale. Adesso è 13esimo a 4 minuti e 15 dalla maglia rosa. L'ho fermato subito dopo l'arrivo. How are you? Tired. I had some health problems the last days, and today we wanted to go for the win, and Nico had really strong legs, so I'm really happy that he made it until to the line, and now some pressure is gone, and we can focus also maybe much more on the GC for Lennart. What will you say to Nico when you see him later? Thank you very much for this victory. And yeah, I mean, he won already last year's stage in Tour de Suisse, so yeah, he has the legs to win also a stage in a Grand Tour, and today he showed his talent. Grazie mille, ciao. Welcome. E allora, avete sentito anche questa volta il rumore della bustina degli orsetti gommosi, che a quanto pare è... Io ero convinto fosse che ha strappato la bustona del buono regalo dell'FS. No, lui non l'ha vinto, no. Il buono regalo. Beh, ma l'ha vinto, magari viene spartito nella squadra. No, erano orsetti gommosi, gli ho chiesto come stai, stanco. Ha risposto Conrad, ho avuto problemi di salute negli ultimi giorni e oggi l'obiettivo era la vittoria. Nico aveva delle gambe straordinarie e sono molto felice che sia arrivato fino al traguardo. Adesso un po' di pressione dalla nostra squadra è andata via, perché ricordiamo, la Bora è la squadra che difende il titolo in questo Giro d'Italia, la squadra di Jai Hindley, che però non è venuto. E adesso possiamo, ha continuato Patrick Conrad, concentrarci, anzi lui ha detto proprio focussarci, l'ha detto in inglese ma noi lo traduciamo in italiano, sulla classifica generale con Lennart, che continua a essere il capitano della Bora per la classifica generale. E gli ho chiesto cosa dirà a Nico, cosa avrebbe detto a Nico Denz quando si sarebbero visti, perché i corridori che vincono la tappa vengono portati via subito dopo, non dalle forze dell'ordine ma dagli non addetti più. Del giro, almeno non più da un po' di tempo per fortuna, perché hanno la premiazione, il podio e così via. Cosa avrebbe detto a Nico Denz? Semplicemente grazie mille per la vittoria. Poi ha detto, Nico ha già vinto al Giro di Svizzera l'ultima tappa l'anno scorso, ha sempre avuto gambe per vincere una tappa in un grande giro e oggi ha mostrato tutto il suo talento. oltre al talento, siccome Nico Denz oggi ha mostrato anche un discreto colpo d'occhio, perché ha saputo cogliere un momento in una fuga che era numerosissima, però molto poco collaborativa, perché i fuggitivi hanno passato quasi tutta la giornata a farsi la guerra l'uno con l'altro. In televisione è stata definita anarchica, su questa definizione avrei qualche dubbio. Sicuramente è stata caotica la gestione della fuga da parte dei fuggitivi e guarda che ti riguarda, tira che ti ritira, alla fine si è avvantaggiato un gruppetto che un se n'è andato dalla fuga in maniera quasi casuale, esatto. E poi dietro hanno continuato i componenti di quel che restava della fuga a turno quasi ad attaccare per ricongiungersi ai 4, ai 5. In realtà erano 5 all'inizio che erano davanti a tutti, ma non c'è stato verso, insomma. Collaborazione oggi non era la parola chiave della giornata. Facciamo un passo indietro all'ordine d'arrivo, perché secondo si è piazzato il corridore che avete ascoltato in apertura di puntata, Tom Squinch. Abbiamo parlato con lui al mattino, quindi prima della tappa. È stata una fuga un po' che all'ultimo che resisteva, no? Una sfida, quasi una caccia. Potremmo chiamarlo uno Squinch Game. Questa è un po' più complessa da accettare. Ma Tom Squins, che è un corridore di 31 anni della Trek Segafredo, ha vinto una Tre Valli Varesina in carriera nel 2018, è stato maglia Poil Tour de France per alcuni giorni ed è stato 4 volte campione nazionale lettone. Non è che ci sia grande competizione, però lui per 4 volte ha vinto il titolo. È arrivato secondo oggi, era abbastanza affranto. Si consolerà con un risotto alle fragole, che è il suo risotto preferito. È una cosa che ho scoperto che non ascolterete nell'intervista, ma me l'ha detta stamattina. È buono, però è con un giorno di ritardo. Era risotto ieri. Alle fragole, almeno io non sono un esperto di cucina regionale, come lascio a intendere in questo podcast, però ho mangiato più volte il risotto alle fragole alla Trattoria Popolare di Milano, grazie a Luigi, lo chef che lo prepara, buonissimo, ma l'ho mangiato anche al Giro d'Italia una volta sola nella mia vita a un buffet a Tortona, dove siamo arrivati ieri. Penso che si possa mangiare anche a Torino, se uno lo cerca. In ogni caso, ha concluso Toms parlando di risotti: in my book any risotto is a good risotto. È una bella massima. Ha scritto un libro sui risotti, quindi in my book any risotto is a questo good risotto. Questo compare nell'angolo del libro in una delle prossime puntate. Il libro dei risotti di Tom Squinch sarebbe un best seller. Ma ascoltiamo la prima parte poi della chiacchierata. I don't speak Italian, no. Not at all. Well, not really, no. Not even a word, like ciao or something. Yeah, no, I mean, I can say ciao, but ciao is also in Latvian, so. Oh, really? You have the same word in Latvian? Yep. Okay, and it means ciao? Yep. It's your first Giro. Is it like you imagined, better, worse? Yeah, I mean, it's pretty much as I imagined. I expected a bit of disorganized chaos, and that's what we're having. I expected some bad weather, and that's what we're having. Yeah, so. As expected, I'd say. E allora lui non parla italiano, gli ho chiesto nemmeno una parola, nemmeno ciao, e lui ha detto sì, però ciao esiste anche in lettone, e io gli ho detto davvero? Sì, e significa ciao? Sì, proprio così. Poi gli ho chiesto: il tuo primo Giro d'Italia a 31 anni dopo 5 Tour de France e una Vuelta, non è mai stato in vita sua sulle Dolomiti, Tom Squins, e le attende, e gli ho chiesto: e come immaginavi il Giro, è meglio, è peggio? E lui ha risposto: direi è come lo avevo immaginato per la maggior parte. Mi aspettavo del caos disorganizzato ed è quello che stiamo avendo. Mi aspettavo del cattivo tempo e lo stiamo avendo. Quindi sì, tutto sommato, come da previsione. You are of course one of the few Latvian riders. You are very proud of being from Latvia. What's the main trait, the main character of people from your country and why are you so proud? I think people in Latvia are quite hardworking. They don't talk too much. They keep to themselves, but keep their head down and do the work that needs to be done. And I think that that's kind of what one of my characteristics as well. And that's why, yeah, one of the reasons why I'm proud to be Latvian. Gli ho chiesto come seconda domanda: sei uno dei pochi lettoni professionisti e sei molto orgoglioso di esserlo. Qual è il tratto più importante del carattere lettone che ti rende così fiero di esserlo? E lui ha risposto: penso che i lettoni siano dei grandi lavoratori, non parlano molto, si tengono le cose per sé, testa bassa e fanno quello che va fatto. E penso che queste siano anche le mie caratteristiche ed è una delle ragioni che mi rendono orgoglioso di essere lettone. Tom Skuins è anche uno... Scusa? Sì, stavo per sbagliarlo, poi mi sono corretto, salvato in calcio d'angolo. È uno dei ciclisti più attivi su Twitter. Non so se voi lo seguite, vi consiglio di farlo perché è anche molto divertente. Ieri, per esempio, ha twittato questa foto degli asciugascarpe, che non so se è quello famoso di Jonathan Milan di cui ci aveva parlato il secondo giorno, però è una specie di... Non so, sapete, avete presente quegli asciugacapelli degli hotel con i tubi? Questo macchinario che col tubo riscaldante asciuga le scarpe, come si chiamano, gli scarpini, sì, sì, dei ciclisti, e lui ha detto che, visto il tempo, ha scritto su Twitter, il tempo che stiamo avendo al giro potrebbe diventare il suo miglior amico, questo strumento qua. Comunque, per dire, lui è molto attivo su Twitter, nella sua bio c'è scritto alla fine, all'inizio Potato Ambassador, quindi ambasciatore delle patate. Non gli ho chiesto per quale motivo, gli ho chiesto perché alla fine della bio ci sia scritto 100% tears, T-I-R-S, che è una parola in lettone. Sì, è una I anche per modo di dire, quella... Come si pronuncia? Quindi? Non lo so, non lo sentiamo, sappiamo. Se non c'è la pronuncia, no, lui... Non il c'è significato, la pronuncia. Me l'ha detto, la pronuncia, okay. No. I mean, it could be clean, could be pure. I think it's more about... my approach to life. I want to be fair, clean, true to myself, true to honest with who I am, what I do, and I think that's what it's about. E allora, quella parola misteriosa può significare pulito o anche puro, ha detto Squins. Riguarda il mio approccio alla vita. Io voglio essere uno leale, pulito, fedele a me stesso, onesto rispetto a quello che sono e quello che faccio. Sì, direi di sì, riguarda tutto questo. E infine gli ho chiesto perché lui continua a usare Twitter, nonostante poi mi avesse detto che ultimamente non è più così attivo, non è attivo come lo era un tempo. Gli ho chiesto perché continui a esserci, nonostante tutto. I enjoy interacting with fans, and I think social media in general is a nice platform to do it. Cycling, one of the best things about cycling is that people get to watch us very close. There's no tickets, no requirements. All you need to do is show up to the roadside, and there's no other sport really like it. And I think that's one of the beauties about cycling. And I think that's why I am dragged to the sport, but also why I like to interact with people. Because they get to ride the same roads, they get to experience the same stories sometimes. It doesn't matter how fast or slow you're going, but you kind of have the same experience. I think that's why I enjoy chatting with people, both on Twitter or wherever else. It's sometimes good fun. Grazie mille, you are a very interesting person to follow, I have to tell you. Prego. E lui dice: mi piace interagire coi fan, e i social media sono un buon modo per farlo. Una delle cose più belle del ciclismo in generale è che la gente può vederci molto da vicino, non c'è un biglietto, nessun prerequisito se non venire a bordo strada. E non c'è nessun altro sport come il ciclismo. E questo è il motivo per cui io stesso mi sono appassionato a questo sport, ed è anche il motivo per cui mi piace interagire con le persone. Perché i tifosi pedalano sulle nostre stesse strade, spesso sperimentano le stesse storie, non conta quanto vai veloce o lento, puoi vivere la stessa esperienza di noi professionisti. E questo è il motivo per cui mi piace chiacchierare con le persone, sia su Twitter che da qualsiasi altra parte. Qualche volta parlare con le persone è proprio divertente. Ed è vero, è un po' meno divertente il ciclismo sulle strade talvolta, nel senso che evidentemente Tom Skuins non sa, anzi Skuins non sa dell'esistenza del Giro E. Se no apprezzerebbe un po' meno il ciclismo sulle strade. Ma credo che il Giro E sarà protagonista di un siparietto più avanti in questo episodio. Concludo questa parentesi su Skuins dicendo che mi ha ricordato questa sua risposta sui tifosi, quello che ci aveva detto Theo Gegenhardt durante la prima settimana. Quindi un altro corridore che apprezza e come dire, considera la prossimità del ciclismo un valore aggiunto. E ne approfittiamo per salutare Theo Gegenhardt, che ancora in ospedale è stato operato, e gli auguriamo, insomma, buona guarigione. Tu stai meglio, Leo? Come stai? Beh sì, ti ho detto all'inizio, sono molto contento di come è andata a finire la tappa di oggi con questi bei protagonisti. Abbiamo parlato di Dance, abbiamo parlato di Squinch, non parleremo di Berwick perché ancora non lo conosciamo, ma non escludiamo di farlo nei prossimi giorni. Squinch è un debuttante al Giro d'Italia, lo capiamo dall'accenno alle Dolomiti, come è un debuttante al Giro d'Italia Marco Frigo, che oggi a un certo punto non sapeva più dove stare perché è attaccato alla fine della salita Nicole Braida, è stato ripreso, ha riattaccato, è arrivato quinto da solo. Lui aveva davanti Berwick, che è il suo compagno di squadra, la Israel, però era, come dire... Indomito. Indomito, bravo. E ci hai parlato stamattina? Esatto. E lo ascoltiamo allora. Allora, innanzitutto, cominciamo facile, nome, cognome, squadra. Frigo Marco, Israel Premier Tech. Non parente di... No, no, assolutamente no. Primo giro di Frigo, giro gelido, è una coincidenza? No, ma dipende, direi forse anche di no, dato che quest'inverno non sono tanto riuscito a sciare quando volevo e quindi vorrei dire che il brutto tempo doveva farlo a maggio e quindi forse non è stata una coincidenza. Dov'è che ti piace andare a sciare? Dov'è che... Ah, sull'altopiano di Asiago. Poi la smettiamo con queste battute, ma tu sei un tipo freddo? Sì, sì, sono un tipo freddo. Tante volte mia nonna mi dice: dai Marco, fai un sorriso ogni tanto. Invece sono spesso concentrato su quello che devo fare e è abbastanza razionale in tutto, quindi sì, sono un tipo freddo. Sei giovane, magari tanti non ti conoscono, descriviti un po' come corridore. Ma diciamo che sono sempre stato un passista che si difende bene in salita. Ho sempre avuto delle buone qualità anche in salita, ovviamente essendo 1,88 m non posso essere un pieno scalatore, ma tutto sommato me la cavo. Perché ti ho visto in fuga il Tour of the Alps, ma il giro ancora no. Il giro ancora no, ma magari siamo stati più conservativi nella prima parte, cercando anche di aiutare appunto Pozzo, ma adesso ci sono ancora 5-6 giorni molto buoni per le fughe e ci saremo. Meglio nel mirino per caso o... No, ogni giorno può essere, diciamo ci sono giorni migliori, giorni peggiori per le fughe, ma in quelli più adatti ci saremo, proveremo. Nella terza settimana si passa da casa tua, no? La tua Bassano la Grappa, hai un fan club anche che ho conosciuto, insomma, l'anno scorso al trofeo Piva, hai fatto secondo, erano tutti impazziti per te. No. Sì, passiamo dalla mia città e sicuramente il fan club sarà molto attivo in quella tappa, ma anche nella tappa nelle tre cime e in altre occasioni. Loro sono sempre pronti a supportarmi e essere al giro per loro è un immenso motivo per far casino. Sa qualcosa al programmato di pronto, sai già o non ti hanno detto niente? Sarà sorpresa? Ma di solito io sono sempre all'oscuro di tutto ed è giusto che sia così perché loro sono i miei tifosi e io non mi intrometto sulle loro organizzazioni. Grazie mille Marco, gentilissimo. Buona giornata. E allora, dopo quest'ampia pagina dedicata e meritatamente ai fuggitivi di giornata, diamo uno sguardo invece più velocissimo alla classifica generale perché è cambiato molto poco, Leonardo, no? Non è cambiato nulla, abbiamo già detto dell'unico che ha guadagnato posizioni che è Conrad. Garen Thomas è sempre in maglia rosa, a seguire Roglic a 2 secondi, Joao Almeida a 22 e poi Andreas Leknessund a 35 per completare le prime 4 posizioni, Damiano Caruso oltre il minuto e 28 e a seguire Kemna Dunbar, Arensman 8, De Plus 9 e Aurélien Paré-Peintre 10. A completare la classifica generale possiamo dire anche oggi, portiamo avanti questo triste bollettino, però ci sembra corretto anche per salutare i corridori che hanno salutato a loro volta il Giro d'Italia. Corridori non sono partiti: Alessandro Covi, che si è fratturato, se non sbaglio, l'osso sacro. È una cosa molto dolorosa. Sacrococige, molto dolorosa e molto sacra. Parleremo di sacri anche in questo episodio. Corridori non sono finiti: Michael Schreil, Caden Groves e Anne Van Auke, che abbiamo incontrato ieri. Là sopra, su tutti, svettante, c'è sempre la maglia rosa di Gerasimo Tommaso. Gerasimo Tommaso, che in conferenza stampa ha detto un po' di cose interessanti. Per esempio, gli ho chiesto del dessert. Il dessert che ieri, no, ha detto che avrebbe offerto e mangiato con i suoi compagni di squadra per tirargli un po' di morale dopo una giornata più bassi che alti. Difficile. E ha detto che sì, hanno mangiato. Il chef della squadra ha preparato qualcosa di che non ha ben capito, in realtà, un po' di strano, dice Thomas. Lui non ha capito o tu non hai capito? No, parlo un gallese effettivamente quasi incomprensibile, Thomas, però io ho capito che lui non avesse capito di cosa si trattasse. Il dessert, ho creato una frase troppo complicata. In ogni caso, c'era un po' di cioccolato bianco sopra. Ecco, no, c'era, questo l'ho detto. Conosciamo la copertura, ma non il contenuto. Esatto. Ci è sufficiente per, come indagine giornalistica. Poi, cos'altro gli hai chiesto? Ha detto che Tao è in good spirits. Ha detto che sta bene, che è felice, l'operazione è andata bene. E che ha risposto sul gruppo della squadra su WhatsApp, insomma, dicendo che, insomma, facendogli forza anche alla squadra. Le stelle si raccontano. L'oroscopo di domani dal genius di Asterio Trefortuna. Per il giro, per la tappa, per la vita. Ariete. E poi arriva l'estate. Non sei pronto, Ariete. Non ti lamentare. Stanno le stagioni, so quelle, so. Quattro sono. Toro. Ti devi aggiornare, Toro. Tu, il Commodore 64, non lo fanno più. Se lo cerchi, non lo trovi più, Toro. Gemelli. State giocando a nascondino con le stelle. Bravi, gemelli, bravi. State vincendo la partita. E beh, siete contenti voi, contenti tutti quanti. Cancro. Dunque, tattica di gara per domani, amico del Cancro. Tu, quando vedi che sei ultimo, cerca di non essere ultimo. Leone. Sta tutta la foresta in attesa di sentire il ruggito tuo. Leone, ruggisci domani, ruggisci. È una metafora, hai capito, Leone? Vergine. Allora, se non parli con Pasquale, ma parli con Maria, che è la figlia di Pasquale, è come se parlassi con Pasquale. Hai capito, Vergine? Non ci devi parlare, tutta la famiglia deve evitare. Bilancia. Tu fai zumba. Che ti devo dire? Ti sei ingabonita con questa zumba? Le stelle sono chiare. Non ascolti le stelle, fai di testa tu, bravo, bilancia. Scorpione. Io ti do consigli chiari, Scorpione. E tu invece fai di testa tu, fai quello che ti pare, continui a ignorare. L'altro giorno hai parlato col signore che avevo detto che i capelli unti e tu, le stelle sono amareggiate. Sono amareggiate perché te lo dicono e tu fai di testa tu. Sagittario. Oggi è sereno, Sagittario, più di ieri, ma meno di domani. Ci siamo capiti, Sagittario. Capricorno. La pizza deve lievitare di più, Capricorno. Acquario. Bravo, Acquario. Hai ascoltato le stelle, ti sei cambiato la bicicletta, però sei caduto. Ma non ti preoccupare, c'è un significato dietro a tutto quanto. Scoprilo. Pesci. Ti ho visto, Pesci, che stai facendo un'altra lista. Ma tanto non le segui, ste liste. Poi non capisci manco più la tua scrittura e ti perdi i fogli. Le stelle consigliano. Una luce accesa può essere bianca o gialla. Tu, di che colore la vedi? Queste domande esistenziali mi lasciano sempre un attimo... Sì, queste finali sono proprio... No, ma certo, io invece, Asterio Trefortuna, sta diventando... A un certo punto lui insulterà, sì, le persone. Direttamente, ma con nome e cognome. Di solito gli oroscopisti... Soprattutto, cioè, Pasquale. Si dice oroscopisti... Dice astrologi, poi astrologi. Quelli che fanno gli oroscopi sono una parte, diciamo. Tendono a essere accomodanti, no? Sai, ti dicono cose che ti fanno piacere, che vuoi sentirti dire. Lui invece... No, guarda, io non è che legga tantissime cose di astrologia, qualcosa, però ogni tanto me lo vado a leggere. Mai nella mia vita ho letto la frase "le stelle sono amareggiate". Asterio non le manda a dire, diciamo, potrà avere dei difetti, tanti, no, secondo me, però non le manda a dire, soprattutto con la famiglia di Pasquale. E vabbè, prima o poi scopriremo chi è questo Pasquale. Ci stiamo documentando, no? Perché noi... Insomma, abbiamo preso a cuore anche questa questione oggi, addirittura per... Abbiamo fatto una sosta apposita. Approfondire, abbiamo fatto una sosta apposita perché sapevamo che c'era il portale dello Zodiaco. questo è un po' meno poetico della biblioteca. Anziché girare due chiavi massicce da scrigno, bisogna fare bip con un bigliettino digitale. Fatto sta che con un po' di fiatone, perché siamo partiti dal parcheggio e stiamo facendo una scalinata di quelle, non so, azteche praticamente. E dove siamo, Leonardo? Stiamo alla Sacra di San Michele e stiamo per entrare nel percorso guidato, ma senza guida, perché ce lo faremo da soli. E non lo so cosa ci aspetta in realtà. Non lo sappiamo. Sappiamo solo che c'è la Sacra di San Michele, è un condominio, diciamo, di frati padri rosminiani. Ad ogni modo, adesso stiamo per passare, non è questo, ma tra poco passeremo il portale dello Zodiaco. Vabbè, ma c'è lui che ne sa più della guida. Sì, no, volevo dire che una cosa che emerge immediatamente è che i padri rosminiani sono pronti per partecipare al giro, perché se vanno su e giù da queste parti ogni giorno devono avere due gambe non male. Comunque sì, abbiamo imbarcato un ospite del posto che ora si presenta. Ciao, sono Alberto, locale qua di Valgioia in realtà, quindi la località che verrà discesa dalla tappa, e siamo nella scalinata dei morti. Qui venivano e sono credo tuttora seppelliti dei frati, come si vede qui, mentre saliamo con una certa fatica, devo dire. Poi anche le tacchette sotto le scarpe. Per forza. Classica architettura romanica, gente che viene fustigata sui capitelli, insomma cose diciamo divertenti, ottimistiche. Ma i segni dello zodiaco dove sono? Perché io voglio vedere se almeno qui il leone ruggisce. Eccoli qua. Qua c'è un pesce. Non sento ruggiti. No, è qua, il leone l'abbiamo trovato, ma non, no, mi sembra piuttosto mansueto. Se siete, diciamo, fan dell'alpinismo e della religione allo stesso tempo, potete dire di aver fatto una scalata da 1000 metri dentro una chiesa, perché credo sia uno dei casi unici al mondo di una vetta di una montagna inclusa dentro una basilica, che è una cosa, diciamo, particolare. Ecco. È la vetta del monte Pirchirano, culmine vertiginosamente santo, come scrisse Rebora, 962 metri sul livello del mare. Procedo ora con la lettura della preghiera a San Michele Arcangelo, tradotta in italiano da Clemente Maria Rebora. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sii a noi sostegno. Gli comandi Dio, supplici noi preghiamo, e tu principe della milizia celeste, Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione degli uomini vagano nel mondo, con divina virtù nell'inferno discaccia. C'è un momento incredibile di canti gregoriani, uccellini che cantano fuori e rumori di festa del Giro d'Italia sotto. Praticamente ho scoperto di aver suonato dei live senza essermi inventato nulla, perché qua sta succedendo davvero. Eccoci, siamo sul belvedere, sulla terrazza che si affaccia sul monastero. Su quel che resta crollato, del monastero, su quel che resta, sì, del monastero, e dietro c'è la Val di Susa, quel che resta della Val di Susa. Quel che resta della Val di Susa, finché hanno voglia di trapanarla. Non finiscono di trapanarla del tutto, esatto. E purtroppo vista un po', diciamo, tenebrata dalle nubi, per noi di qua, per chi abita, diciamo, bassa Val di Susa, Val Sangone e dintorni, la Sacra significa casa, perché si vede sempre, quando arrivi sai che sei arrivato e sei tornato a casa. Quindi anche in bici è un riferimento fondamentale? Sì, diciamo che anche salendo dal Colle Braida, facendo la salita, i corridori la vedranno più e più volte, perché la strada fa un po' di S intorno alla costa della montagna, e la vedranno sempre più avvicinarsi. Ci racconti un po' la leggenda associata ai ruderi di questa torre del vecchio monastero? Se non... Diciamo che la storia della Bellalda è la classica storia di hubris, diciamo, declinata in senso, diciamo, cristiano-cattolico. per sfuggire da un nobile che la perseguitava, la Bellalda sale in cima a questa torre, non avendo altra via di scampo, si tuffa dalla cima della torre e viene salvata dall'arcangelo Michele. Dopo questo miracoloso salvataggio, la Bellalda decide di vantarsi con i suoi compaesani di questo miracolo che le era avvenuto, e per una sorta di scommessa, per rilanciare la posta in gioco, decide di replicare, questa volta senza la minaccia, il tuffo dalla torre. Ovviamente, come potete immaginare, l'arcangelo Michele non interviene in soccorso e la Bellalda diventò tristemente una frittata. E questo è anche il motivo per cui questo luogo è noto anche come la plancia della bella figlia, che è la Bellalda. La Bellalda, sì, della Bellalda, sì, sì. Che è il motivo per cui... Comunque avevamo detto che non avevamo una guida, invece abbiamo una guida incredibile con noi. Di caricare Alberto in macchina con noi e lasciare Michele Pelacci qui. Ah, tu dici, questo potrebbe essere... No, Michele è a casa sua. Però abbiamo spazio, portiamo Alberto e allarghiamo l'equipaggio. Io però comincio a udire sinistri suoni di giro elettrico in arrivo, quindi direi di approfinquarci per anticiparli, altrimenti rimaniamo ancora una volta dietro di loro e il povero Arcangelo Michele si sentirà nominato dalla nostra automobile, tirato in causa per motivi non sacri, purtroppo. Cioè, mi stai dicendo che non ti senti in una silenziosa comunione di vita che è tenerezza d'amore verso un segno di eternità delle vette che guardano e si intendono in pace? Mi sentivo in questa situazione prima di udire i clacson del Giro E che sta per arrivare. Cioè, è un dato di fatto che Clemente Rebora ha vissuto prima del Giro E. All'ingresso della Sacra abbiamo incontrato... Gloria, ciao, sono la guida della Sacra di San Michele. Ciao Gloria, grazie di averci accolto in una giornata in cui la Sacra è un po' diversa. Sì, sì, oggi passa il giro, quindi adesso le persone sono pronte a vedere il giro che passa. Qui purtroppo oggi c'è poca gente, ma di solito passano anche 1000 persone al giorno. Raccontaci qual è l'importanza della Sacra, perché tutti i nostri amici che ci ascoltano e verranno qua su in bici faticando... Gli conviene fermarsi non solo a tirare il fiato, mica tanto perché è tutta su e giù, ma a vedere questo luogo. Sì, allora dunque oggi ci troviamo, questo è un luogo di pellegrinaggio, venivano i pellegrini nel Medioevo dalla Francia, venivano a piedi o a cavallo diretti fino a Roma, addirittura fino verso Gerusalemme, arrivavano in posti ricchi di simbologia come la Sacra per meditare. La Sacra diciamo che è un cammino dentro il cammino, perché è proprio questo percorso che si fa salire verso il paradiso, verso la chiesa che si trova proprio in cima, ed è un percorso dove si affronta questo buio che è lo scalone dei morti, è la nostra vita materiale, per ricongiungerci poi alla luce, la nostra parte più. San Michele noi lo vediamo spesso rappresentato come un guerriero che impugna la spada e sconfigge il diavolo, il male, ma qua abbiamo la statua dove lo vediamo vestito con un abito da monaco, come a dire che siamo in un luogo di pace, qui il male è già stato vinto. Ed dall'altra mano spesso l'arcangelo era rappresentato con una bilancia, la bilancia ci insegna a pesare quello che è più giusto per noi. E in chiesa, non so se avete visto il dipinto, l'affresco del San Michele, c'è il diavolo che ha un bel viso, come quello dell'angelo, non è rappresentato come un mostro, e questo ci insegna anche che non sempre tutto ciò che consideriamo come bello è un bene. È l'inganno del male che si traveste da bene. Questo è anche il luogo che ha ispirato il nome della rosa. Sì, sì, Umberto Eco ha preso ispirazione dalla Sacra. Tanti pensano che il film sia stato girato qui, ma in realtà una riproduzione è stata presa da Cinecittà poi. Tu che conosci la Sacra in ogni angolo, l'hanno riprodotta bene? In ogni angolo è un po' impossibile, io ogni giorno, lo dico anche a chi viene qui a visitarla, scopro sempre parti nuove della Sacra, c'è sempre da scoprirla ogni giorno. Io vedo il nostro Azzo da Melk che scalpita, che ovviamente è Michele, perché vorrebbe andare a vedere la corsa che sta per passare, anche noi, quindi grazie per l'ospitalità. Grazie a voi e buon giro. Grazie. Grazie. Ci siamo fatti le gambe oggi anche noi, un po' di fiato, poco, un pochino, molto meno, ma un pochino anche noi. Ne approfittiamo per ringraziare nuovamente Alberto, la guida locale in amicizia, e Gloria, la guida vera e propria della Sacra di San Michele, posto eccezionale. Uno degli highlights di questo Giro d'Italia finora. Uno di quei luoghi da cui svetti e poi guardare all'orizzonte e in un qualche modo guardare anche al futuro, no? Sì, guardiamo al futuro, guardiamo a domani. Domani sconfiniamo insieme ai corridori. Prima dei corridori lo faremo noi. Speriamo. Speriamo, altrimenti sarebbe un problemino. Andiamo in Svizzera. Sì, è una tappa che va all'estero per tutto il gruppo tranne un corridore. Perché c'è un solo svizzero a questo Giro d'Italia, un caso raro, perché insomma. C'era Kung, ma allora tirato. C'era Kung e doveva esserci anche Gino Meder, che era, era certo. stato convocato, ma non ha potuto partecipare a questo giro. È rimasto solo Fabian Lienhard della Groupama. Chi? Lienhard. In realtà lo so perché me l'ha detto l'altro giorno, ma non me lo ricordo. Però fatto sta che ieri sono andato a trovarlo alla partenza della tappa, perché ero curioso di vedere quest'unico svizzero facente parte del Giro d'Italia. Che della Groupama, dicevi? Della Groupama. È anche un corridore particolare, perché lui ha 29 anni ed è arrivato nel World Tour a 26 anni. Non ha avuto una carriera lineare, giovanile, passato alle squadre importanti. Ha lottato, me l'ha anche detto, lui è andato a correre anche in America per riuscire a farcela, e adesso ce l'ha fatta, è entrato nella Groupama, è un passista che però è qui anche per aiutare Pinot in qualche modo, ed è rammaricato per essere l'unico corridore svizzero del gruppo. Mi ha detto che gli dispiace non avere altri con cui parlare in tedesco-svizzero, perché non è, lui parla con gli altri tedeschi, sicuramente anche con Nico Denz e Patrizio Corrado che abbiamo sentito quest'oggi. C'è un altro svizzero in realtà, che è Gregory Rust, DS della Trek. Questo mi ha specificato. Ad ogni modo, sono andato a cercarlo perché all'unico svizzero rimasto in questo Giro d'Italia volevo chiedergli se conosce le montagne che andremo ad affrontare domani. Il dubbio mi veniva, visto che lui viene dalla parte opposta del paese, però sentite cosa mi ha detto. Yeah, I know it a little bit because once after Coppa Sabatini some years ago I rode home with the bike from the race with my friend Simo Pelo. He lives in Martini, so we did St. Bernhard and all these climbs. So yeah, it's quite the same route we do the next days. And where did you stop for eating something good? We stopped actually at the uncle from Simo Pelo in Aostatal. It's the only time you went on that mountains? Yeah, only one time, and I think I was one time in Gramontana, but yeah. It was really nice. I mean, it was in August, so it was, will be much more colder now. What do you suggest for riding in the snow and for riding in tunnels? To riding in tunnels is the worst, because everybody is a little bit in panic and it's dark and you cannot see much, but in the snow. I mean, you just have to keep try to stay warm, and then it's fine. There will not be someone screaming in the tunnel for the eco? Normally they scream, and if it's downhill a little bit, it's really dangerous, but we will handle that. Thanks so much. Enjoy your Giro. Bye-bye. E allora, le conosce un po', perché in realtà c'è stato una volta sola, ma un anno lui, dopo la Coppa Sabatini, ci racconta che con il suo amico Simon Pellot, corridore, uno di noi del gruppo, dopo la Coppa Sabatini loro sono tornati a casa insieme in bicicletta, sono partiti dalla Coppa Sabatini e sono tornati a casa. Pellot vive a Martigny, hanno fatto quindi, dice, il San Bernardo e tutte le salite, più o meno la stessa strada che si farà domani al Giro. Gli ho chiesto a questo punto dove sono fermati a mangiare, ma mi ha detto dallo zio di Pellot in Val d'Aosta. Non so se domani possiamo fermarci anche noi dallo zio di Simon Pellot, eventualmente lo facciamo. E mi ha detto che sì, che comunque è l'unica volta che è stato lì, che era stato forse un'altra volta a Crans-Montana. Sono dei bei posti, ma fortunatamente lui c'è andato ad agosto, dice stavolta sarà molto più freddo. E quindi gli ho chiesto, visto che si entra nell'attualità della tappa di domani, se ha dei suggerimenti su come pedalare nella neve e nei tunnel, che saranno degli elementi nuovi della tappa di domani. E dice che il peggio sono i tunnel perché è buio, non si vede molto e tutti vanno un po' nel panico. Nella neve invece basta tenersi al caldo e poi tutto va bene. Insomma, non sarà così facile. E abbiamo parlato anche dell'usanza nei tunnel di urlare per far casino, per sentire l'eco. Lui dice che normalmente sì, soprattutto in discesa, è una cosa che ancora si fa in gruppo, è un po' pericoloso, ma lo sapranno gestire. Quindi insomma, Fabian Lienhard non sa darci proprio grandi indicazioni sul percorso della tappa di domani, non lo conosce neanche lui, ma almeno lo svizzero del gruppo l'abbiamo sentito. Della tappa di domani mille indicazioni ce le saprà dare invece l'ineffabile Michele Pelacci. Ci sarà un tunnel lungo al termine della salita del Gran San Bernardo, che è stata, come famoso, diciamo, come risaputo ormai, accorciata sul San Bernardo. Scusami, sì. Se ti frego, sì, se sì. Ti interrompo subito. Sul San Bernardo farà un freddo cane. Bellissima, ci stava. Bellissima proprio. E, noi ragazzacci del Bincio urliamo appunto nelle gallerie, di solito Bincio. Quindi i corridori potrebbero usare questa, così, a saperlo glielo suggerivo. Esatto. Oltre a questo primo GPM, però, ce ne sarà un secondo che a me incuriosisce parecchio. Perché la Croix... Soprattutto perché devi pronunciarlo. Guarda. La Croix de Cour? Cour? No. Vabbè, ogni nostro ascoltatore andrà a leggerlo. Penso sia la croce del cuore, insomma. La croce, la croce del cuore, ecco. Mi sembra il termine corretto. Che è anche un bel, no? Molto evocativo come... Dunque? Dunque, questo GPM è molto duro, sono 15 km all'8.8%. Al momento in cui registriamo, però, non si sa ancora se si fa, perché la discesa verso le Zumaz è... No, non è vero, non si pronuncia così, vero? Però è molto bello. Io odio questo sfruttamento in Svizzera. Andiamo oltre. Io detesto tutto. Potrebbe venire saltata pari pari questa salita. Spero di no, perché sarebbe la prima volta che viene percorsa in un Grand Tour. Ok. Per cui sarebbe bello farla. Dopo 190 km quasi, tappa di domani, anch'essa è molto lunga, perché sono quasi 200 km. Si comincia l'ultima salita, che è Crans Montana, dove la prima parte è tutta 6-7%, alla fine ha una parte che spiana un po', va un po' a scalinate fino all'arrivo. Domani è probabile che qualcuno grosso di classifica si muova, cadano cose, si va dopo... Qualcuno grosso sì. Tipo Milan, no? lo vedi bene. Si va oltre i 2000 metri, per cui l'arrivo è a 1456. Però sarà interessante vedere un arrivo in salita, ecco. Interessante è un aggettivo troppo generico, mi servono dei nomi. Prego, cominciate. Giro di Svizzera, 2013, 10 anni fa, vinse su questo traguardo Bauke Mollema. Ed è il mio nome per domani. Significa fuga anche domani. Sì, perché? Però qualcosa in generale si muove. Ok, rimaniamo così nel vago. Fuga, uomini di classifica che si... Che fuga fughissima, fuga anche fughissima. Domani la vedo proprio come una giornata perfetta per i fuggitivi. Poi magari non sarà così, ma... Beh, mi sarebbe piaciuto molto dire Einer Rubio. È stato in fuga anche oggi, se non sbaglio. Non è lontanissimo in classifica, però ecco, domani la vedo un po' come... Come una tappa da colombiani, da sudamericani, dai. Sono un po' meno ottimista io da questo punto di vista. Non credo che i primi tre si attacchino domani, perché sono talmente vicini ancora in classifica, Thomas, Roglic e Almeida, che sarà difficile prendere l'iniziativa. Soprattutto Roglic, secondo me, non ha interesse domani a tentare qualcosa. Spero mi contraddica. Però quelli che seguono i primi tre invece hanno tutto l'interesse a provare qualcosa. Al quinto posto in classifica generale c'è un corridore della Bahrain Victorious che forse conoscete già, che secondo me domani può vincere la tappa, può avvicinarsi al primo posto in classifica generale. Sto parlando di Damiano Caruso. Sì, Damiano Caruso domani ha grosse probabilità di fare bene, perché questa mattina ha parlato con noi di Geronimo. Abbiamo capito che per il momento abbiamo un effetto non mi spingerei troppo se farà bene non sarà certo per merito nostro. Funziona però quando è il giorno stesso, cioè se tu lo intervisti la mattina, nel corso della tappa il corridore si rende protagonista. Però domani si va in Svizzera, bisogna capire il fuso orario, tutte queste cose. Potrebbe valere di più. Tutto da verificare. Io nel frattempo ho attivato il traffico dati per la Svizzera per sconfinare domani. Detto ciò, sentiamo cosa ci ha detto Damiano Caruso. Ragazzi, buongiorno. Ciao Damiano, buongiorno. Come stai? Bene. Bene, secco, così. Bene, non posso dire... Anche tanto se sto male, devo dire che sto bene. Senti, qui c'è qualcosa che non va. Tu ogni anno mi dici non faccio più il capitano, vado per le fughe, poi inizia il giro e sei sempre lì in alta classifica. Allora, non lo so, finché non mi staccano non posso staccarmi così in automatico. Se sono perché mi staccano e riescono ad andare più forte di me, bene, altrimenti devo tenere duro. Quindi sei capitano per colpa degli altri? Sì, sì, io sono Mr. Wolf di Pulp Fiction, risolvo problemi. Senti, tra tutte le sfortune e le cadute si configura però un giro con davanti Roglic, Thomas, tu sei lì, io anche a una certa età, possiamo dire che finalmente è la rivincita di noi vecchietti? Ma alla fine, guarda, il fatto che la maglia rosa sia un anno più grande di me mi dà anche morale, quindi vuol dire che ancora io posso, non sono l'unica mosca bianca che tiene duro. E no, è un giro ancora, è stato fin qui un giro duro, duro, reso molto duro dal meteo, come tutti avete visto. Ogni giorno abbiamo preso acqua, tante cadute che hanno rovinato anche un pochettino l'essenza proprio del giro. Speriamo in una seconda parte con un meteo più clemente, in modo che i corridori si possano dare battaglia al meglio delle loro forze, delle loro energie. Qual è la giornata decisiva di questo giro? A saperlo, visto la giornata di ieri, ogni giorno è decisivo, perché qui mi sembra che tutti i giorni c'è il colpo di scena, l'imprevisto che può capitare chiaramente a chiunque, e quindi vedi, non c'è un giorno che non per forza deve essere una giornata di montagna quella a decretare chi vincerà il giro, ma ogni momento può essere buono. Grazie mille Damiano. Grazie a voi. Eh sì, ogni giorno può essere buono. E se abbiamo dei problemi ce li risolve. Adesso sappiamo a chi chiede, a saperlo prima avremmo chiesto più spesso a Damiano Caruso di risolvere i nostri problemi. Il nostro problema in genere è la cena, come al solito, no? Sì, di solito lo è. Perché anche stasera finiamo di registrare, bisogna mettersi a montare e tutto quanto, e non so se ce la facciamo. Ce la facciamo, anche perché io ho aperto Twitter, ho trasgredito alla regola, sì, e ho visto subito un tweet di Geraint Thomas, okay, che fa quello che lui chiama dead joke, quindi una battuta che fanno i papà che non fanno ridere, presente? Pensavo dead nel senso di morto, uno scherzo morto. È proprio su questo tema, però è divertente, anche sul cibo, di cui abbiamo parlato prima, dello chef di Geraint Thomas, dice: "Did you hear about the Italian chef with a terminal illness? He passed away. Can only do so much. Now he's just a pizza history." L'avete capito? Io non capisco Geraint Thomas quando parla, figuriamoci quando scrive. Figuriamoci quando scrive e il suo tweet viene letto da Michele Pelacci. Cioè è difficile rendere il can only con cannoli, il piece of con pizza e il passed away con pasta. Ah, quindi okay, va letto, va proprio esatto, letto. Okay, comunque spero bene, che va esatto, bene, va bene. Avete riso un po' almeno. Riso alle fragole, specialità di Tortona, abbiamo detto, non di Bra. Bra, che con 28.000 abitanti in costante crescita è il terzo comune per consistenza demografica della provincia di Cuneo, poi ognuno ha le opinioni che preferisce della consistenza demografica, è il luogo da cui siamo partiti quest'oggi in questa tappa ed è il luogo a cui ha dedicato un suo audio Elzeviro il nostro adorato Gino Cervi. Nella stessa puntata Patrick Conrad e il suo, sì, come si dice, cantore preferito. Ma io credo che Conrad si sia fermato a parlare con noi oggi perché sapeva che poi c'era un audio di Gino Cervi. Ricordiamo che Gino Cervi è un grande tifoso di Patrick Conrad il per motivi ignoti. Il più grande tifoso di Patrick Conrad. E quindi vi lasciamo con questo pensiero di Gino Cervi e vi salutiamo con un monosillabo ciascuno. Allo, bye, ciao. Con neanche 5 litri di benzina il forestiero può arrivare a Bra da Torino andando sempre diritto. La strada l'hanno asfaltata di recente, corre liscia lungo il bordo delle colline, ci sono bei rettilini per lanciare la macchina e anche boschetti di albero, dove se avete la ragazza potete fermarvi un momento in pace. Ai tempi di mio nonno i carri delle verdure facevano questa strada, partendo il pomeriggio dal paese per arrivare sui mercati di Torino il mattino dopo. E anche mandri di buoi e vitelli camminavano nelle notti coi paesani dietro che li guidavano verso le piazze di Francia. Così descrive Bra Giovanni Arpino, scrittore che tra gli anni 50, 60 e 70 scrisse tantissimi romanzi, alcuni da titoli bellissimi come Una nuvola d'ira, La suora giovane, Randaggio l'eroe, Domingo il favoloso, e che scrisse anche molto di sport, perché proprio a partire dagli anni 70, prima per la stampa e poi per il giornale, descrisse eventi sportivi di grande importanza, tra cui anche il Giro d'Italia. Nel 1977 scrisse anche un libro, Azzurro Tenebra, che racconta la storia invece poco felice del Mondiale di calcio nel 74, ed è diventato forse uno degli unici o dei pochi romanzi ispirati al calcio. Arpino non era nato a Bra, ma era cresciuto e aveva studiato a Bra, perché la madre era di questa città piemontese, e la racconta in una raccolta di racconti che si intitola Regina di Cuoi. Di Cuoi perché Bra fino a non molti decenni fa era stata una capitale delle concerie, il che significava sicuramente ricchezza, sicuramente economia, ma anche delle sgradevoli caratteristiche perlomeno olfattive. E sempre Arpino descrive così questo particolare. Per un braidese basta sedersi nella sera a uno dei 3 o 4 caffè che danno sul passaggio in via Cavour per sentirsi a casa. Infatti l'aria marcia lo prenderà subito alla gola, appena fa scuro, lasciandogli appena il tempo di scapparsene in un cinema o intorno a un biliardo a rimirare gli altri che giocano. Sono le fabbriche dei concimi chimici, le concerie, i magazzini stipati di pelli e di cuoio che circondano il paese dalla parte della pianura a dare l'aria a bra e verso sera gli odori del guano e del tannino, delle pelli e dei grassi usati per fare il sapone costringono la gente a fare in fretta per le strade o, se è d'estate, a salire nelle vigne di collina per darsi respiro e stappare la bottiglia vecchia. Beh, io mi auguro che voi a Bra abbiate approfittato della felicità di poter mangiare la salsiccia di Bra, che è una delle cose più meravigliose che vi possano capitare, ma per quanto mi riguarda io invece rimpiango di non essere a Bra per non poter raccontare uno dei miei sogni, quello di costruire o di disegnare, lo dirò a Mauro Vegni, un giro d'Italia fatto di città monosillabe. Ovviamente potremmo partire da Bra per poi toccare Lu ad Alessandria, Ne a Genova, Mu in provincia di Brescia, ovviamente potremmo passare per Ro con un H in mezzo, ma anche per Ro senza H in mezzo perché sta a Ferrara, oppure anche a Re in provincia di Verbania, oppure a Nus in Val d'Aosta, o fare un piccolo giro del Trentino passando per Ton, Cis, Don e Dro. A Belluno ci stanno due paesi che si chiamano Mel e Vas. Vi saluto con questo desiderio che sarà probabilmente difficilmente esaudito.